717. Gelatina di ribes in gelo. Ribes grammi 300. Zucchero grammi 130. Colla di pesce grammi 20. Acqua decilitri 2. Marsala 4 cucchiaiate. Odore di vaniglia. Regolatevi in tutto come nella gelatina di marasche del numero precedente. Ordinariamente l'odore di vaniglia si dà alle vivande con lo zucchero vanigliato, ma in questo e con simili casi meglio è servirsi del baccello naturale di questa pianta, facendone bollire un pezzetto insieme con lo zucchero nell'acqua. A vostra norma, se comprate qualcuno di questi baccelli, osservate che siano grassi, cioè non risecchiti, e conservateli ben chiusi fra mezzo zucchero biondo, a cui comunicheranno il profumo e servirà anch'esso ad aromatizzare qualche piatto. Questa pianta della famiglia delle orchidee, la quale si arrampica come l'ellera, è originaria delle foreste intertropicali di America. Il polline della vaniglia, essendo vischioso e non potendo perciò essere trasportato dai venti, lo trasportano gli insetti. La qualcosa, essendo stata conosciuta dall'uomo soltanto nella prima metà del secolo passato, eseguisce egli stesso l'operazione e feconda le piante che si coltivano nei tepidari. Esse, avanti il 1837, anno in cui si ottennero i primi frutti nel Belgio, erano infruttifere.